Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insergante il traghettatore, buongiorno. Cominciamo con una notizia che serve un po' a mettervi sul chi va là, insomma. In Europa nel 2011 i consumatori di alcolici e di sostanze inalanti, colle, solventi, eccetera, crescono come i fumatori. I giovani italiani in particolare stanno registrando dei consumi sopra la media europea in quasi tutte le sostanze. Questa ricerca di indaga sui comportamenti degli adolescenti ha coinvolto 36 paesi. In Italia è stata realizzata dalla CNR di Pisa. Occhi aperti, dunque, stiamo parlando di vizi duri a morire, ovviamente per nulla gratificanti né positivi. Positiva invece, in questo momento di gravissima crisi mondiale, ma ovviamente con molta, dal punto di vista dell'Italia anche particolarmente intensa, c'è una parte dell'economia, quella sociale, che invece dà segni importanti. In questa parte di economia sociale c'è il consorzio Gino Mattarelli, che li dà davvero eccellenti. Ne parliamo con Claudia Fiaschi, presidente del gruppo cooperativo nazionale. Buongiorno Claudia Fiaschi. Buongiorno. Tanto per dare i numeri, sono aridi spesso, ma alle volte danno davvero delle indicazioni significative. Adesso avete 45.000 addetti e i soci lavoratori sono passati dal 10.900 a 13.900 negli ultimi 3 anni, proprio in piena crisi. Segno, Claudia Fiaschi, che l'economia sociale è un'alternativa importante a questa crisi di sistema. Sì, perché l'economia sociale, in particolare nella forma cooperativa, parte dalle persone, mobilita le risorse delle persone, le competenze, ma anche i piccoli capitali aggregati. È proprio il modello economico che parte, che si fonda su questo, per realizzare beni, servizi, attività molto vicine alla propria comunità e quindi quelle che più da vicino sono prioritarie e rispondenti ai bisogni delle persone. E quindi Il momento proprio, insomma, sembra una risposta dedicata, ahimè, alla situazione che stiamo vivendo. Noi abbiamo scelto di parlare con voi oggi perché volevamo in questa maniera segnalare e sottolineare che il 2012 per l'ONU è anche l'anno della cooperazione, ma vogliamo approfittare della sua presenza, Presidente, per descrivere, in particolare impossibile, nel tempo che abbiamo a disposizione, quali sono le attività del Consorzio Gino Mattarelli, perché è una buona anche dritta per chi ci ascolta capire come si muove l'economia sociale sul mercato. Il gruppo cooperativo, che sono più di 1.000 cooperative presenti in tutta l'Italia, hanno attività nel settore del welfare, quindi servizi alla persona, ma anche attività produttive diverse, quindi nei diversi settori, dall'industria all'artigianato, come forma di economia che consente l'inclusione occupazionale anche di fasce deboli della popolazione, tutte quelle cosiddette categorie dal legge 381, gli svantaggiati, i disabili, la salute mentale, lo svantaggio mentale, ma oggi sempre di più sono anche casse di compensazione occupazionale per le nuove fragilità occupazionali che toccano purtroppo un po' tutte le categorie, anche le persone che fino a ieri erano serenamente occupate nei comparti dell'economia tradizionale. Quindi accanto al lavoro tradizionale nei settori di cura, l'educazione, l'assistenza e oggi sempre di più anche la salute di prossimità, oggi stiamo reinventando da vicino questo ruolo anche per gli over 50 e per le nuove categorie di cittadini. Pensiamo a tutti i migranti che arrivano nel nostro territorio, che sono disposti ad occuparsi di quei comparti dell'economia che non trovano invece un interesse nella professionalità. Presidente, grazie, è interessante, ne dobbiamo parlare ancora perché sono informazioni importanti che dobbiamo dare. Grazie per questa partecipazione e a presto, Presidente. Bene, grazie a voi, buongiorno. Il tasso di disoccupazione giovanile all'interno della UE è del 22%, noi siamo al 35%, quasi al 36%. Questo è un dato drammatico, ma a cui ci stiamo ahimè abituando. C'è una roba a cui si fa fatica invece ad abituarsi, che i fondi non utilizzati per combattere la disoccupazione giovanile negli 8 paesi dove più alta è questa percentuale, fra cui noi, è di 82 miliardi di euro. Incredibile, cioè 82 miliardi di euro che non vengono usati per affrontare il problema della disoccupazione giovanile. Questo è una pessima notizia. La buona è che la Unione Europea ha deciso di riprogrammare questi fondi, che quindi non andranno perduti, speriamo che vengano meglio utilizzati. Un'ultima notizia: dopodomani, lunedì, al teatro, piccolo teatro, Teatro Streller di Milano, alle 19, Pinocchio Meneghino, una rappresentazione teatrale che è un po' la chiusura dell'anno dell'Accademia Oliver Twist, con la rappresentazione teatrale di una delle opere letterarie più importanti dell'Ottocento italiano. chiudiamo con l'invito a cliccare su mi piace ferribot-radio24. Grazie a Danita Panizza in redazione e a Fabio Cantadori in regia. Alla prossima.